Buonasera, buonasera, canale 10, c'è nessuno scambio? Canale 10, cambio. Non invogliano uscire, quindi anche oggi a casa. Ah, io adesso come passata le giornate, mi metto a cantare e mi basta il tempo. Stavo ascoltando ieri già tra una faccenda e l'altra, ho sentito che hai ritrovato il pappagallino, sono contento. Te l'ha trovato la signora del tuo stesso palazzo, era? No, negativo. E abitava in via Lupi. Praticamente è andato lì sotterrato, l'ha preso, ma lei non ha Facebook, quindi non sapeva nulla. Anzi, forse ce l'ha, però non l'ha visto. E le ha detto un amico, capito? Guarda che c'è un signore che lo sta cercando su Facebook, io l'avevo messo su Facebook, la fotografia e tutto, e sono riuscito a trovarla. Il problema adesso è uno, che avevo già ordinato un altro pappagallo maschio, me lo sono anche pagato, adesso quello lì lo venderò sicuramente, se riesco a trovare qualcuno che me lo paga come lo sto pagando io. Ma l'hai fatto per non lasciare la femmina sola, perché non era abituata, poveretta. Caspita, ma sono pappagallini, cioè quelli un po' piccoletti, colorati, o pappagallo più grande, tipo ara? No, sono tipo ara, sono taglia media, però sono pappagalli che parlano, sono tutti pieni di mille colori, si chiama arcobaleno, vai a vedere, si chiama Lori Arcobaleno. Lori Arcobaleno, e adesso me lo guardo, per curiosità, taglia media. Avevi accennato anche al prezzo, quando te era fuggito, non so, che ho sentito una cifra folle per i miei parametri. Sì, folle. Dalle 300 alle 350 euro. Il cacchio, allora avevo sentito bene, avevo sentito 150 euro, potevano essere 150, 250, 350, caspita, ci usciva una radio. Vabbè Marco, è una passione. Però devi contare che sono pappagalli che parlano. Il mio, quello che mi è scappato, diceva io, vieni, io. Poi diceva Romeo, il suo nome. Poi canta la canzone della famiglia Adams, fischia. Insomma, stava già imparando a parlare. Adesso l'altro che c'è, è piccolino ancora, però sta cominciando anche questo. Eccolo qua. Ah, ma è coloratissimo, Lori Arcobaleno. Sì, questo è veramente più colorato. Tutti i colori c'ha. Mi pare tipo rosso, arancio, blu forte, verde, verde più chiaro. Che bello che è. Sono i pappagalli tra i più belli che ci sono come colori. Per quello costano così, sono originali dell'Australia, Australia e Perù. Anche il giallo sul collo, bello, veramente bello, poi colori molto forti, non accennati, ma colori proprio pugna osci, proprio visibile, il becco rosso, almeno questo che vedo io. Naturalmente tu hai l'hobby degli animali, io l'ho avuto in passato, ma roba sempre economica, cricetti, così, roba, niente di che. tu avevi le cavie peruviane, poi mi pare, non so se ti hai stancato, erano morte, perché gli animali sono sempre impegnativi, devi pulire cacca, cioè pulire gabbiette, disinfettare, vabbè, io mi ero stancato, non era per me, troppo mandrone sono. Allora le cavie facevano bei figli, ne avevo tantissime, e alla fine ne ho date a un'amica che c'è nella campagna, e c'ha le conigliere, c'è tutto quanto e ci stanno benissimo, oltre che costa un bel mangime, quello da 700 grammi costa 18 euro, e si rimangiano in poco tempo, devi comprare i peperoni rossi, perché contengono vitamina C, loro non la producono naturalmente, quindi bisogna inserirla, bisogna dargli ogni giorno, e peperoni rossi buttare un bel di là. Invece questo amico che ho, questi amici miei, hanno la campagna, c'hanno l'orto, coltivano pomodori, c'hanno tutto in campagna, capito? I peperoni ce li hanno piantati, addirittura li vende al mercato all'ingrosso, quindi ne ha, capito? Ma per caso i peperoni rossi o un certo tipo di cibo è per il pigmento, per mantenere i colori, o non ne hanno bisogno? No, non è per il pigmento. È per inserire la vitamina C che contengono i peperoni rossi in maggior quantità di quegli altri, di quelli verdi e di quelli gialli. E serve per inserire nel loro corpo, perché non la producono la vitamina C loro naturalmente, capito? Sì, hanno una integrazione della dieta, là, in modo che assumano tutto quello che gli serve. Ho avuto culo mi già, meno male che è entrato in una casa, perché se andava in alberi anche distanti, poi poteva trovare qualche uccellaccio predatore, magari notturno, qualche civetta. Insomma, dai, gli è andata bene. Va bene già, io mi metto i fornelli e ci sentiamo quando capita, ok? Ciao già, buona serata. Ehi, erano solo qui, diciamo anche le calopsite. Le calopsite sono quelle che hanno la cresta, non so se le conosci, ci hanno 5 uova adesso, di cui uno l'ho promesso a chi mi ha trovato il pappagallo, gli ho promesso che glielo regalo uno, e lo devo fare, quando nascono glielo lascio uno da parte. Calopsite, con la C, calopsite, vediamo. Ah, sì, con la crestina ondulata, dai, che poi la possono anche aprire. Sì, sembra un ciuffo, poi lo possono aprire e diventa una cresta fatta di vari ciuri, varie piume, dai. Stavo dicendo peli, no, piume. Sono della famiglia del cacatua. Stavo per un saluto, ciao Marco, buonasera. Ciao Gianfranco, dopo tanto, dai. Ti ho atteso per settimane, sperando di fare una taratura FM per un apparatino, poi vabbè, sono andato a orecchiometro. Vabbè, ogni tanto si entra e si esce così, tante cose da fare. Ciao anche Gianni. Ciao, ben sentito. E allora, come sa va? Sono un po' di tempo che non ti sento, Gianfranco. È sempre impegnato, anche adesso mi ho sentito a Marco dopo tanto, riesci che entro, me la so buttare un attimino, che adesso me ne ritorno a fare un lavoro che sto facendo, ordinando dei gruppi praticamente. Ok, quindi vi risaluto, buona serata, buon proseguimento, e Marco fate sentire così ogni tanto ci facciamo una chiacchierata. Sperando sempre di essere liberi. Ciao a tutti, buona domenica. Ciao Gianfranco, ci sentiamo. Buona faccenda, dai. Avanti. Ciao Gianfranco, buona configurazione e buon tutto, dai, ci sentiamo le prossime. Oh già, ce l'hai le femme? Io? Sì che ce l'ho. No, per fare una prova rapida, sentire se la modulazione è altrettanto soddisfacente, dai. Aspetta che devo accendere la luce, se non c'è vedo un caldo. Ecco. Adesso guarda. Vai diretta lì. Prova, 1, 2, 3, vediamo se sei arrivato, 1, 2, 3. È buonissima la modulazione, mamma. Sto parlando di taglio al mic, distanza due dita, sempre di taglio al mic, perché se parlo frontale potrebbe sputazzare. Microfono a condensatore, questo è un omologato MFM. Va bene. Ok, già grazie al controllo, guarda, provo ad allontanarmi, sto 4 dita dal mic, però in FM credo che sia migliore così. Non ma l'importante è che non stanchi. La mia com'è? Eccellente. Chi è l'altro che ha parlato assieme a Gianni? Non si è uscito di radio, ho visto solo la portante. Come parla di Bagnata? Ma perché tu la senti la modulazione? Basta. Butta lì, ti cuzzuleggia un pochino. Comunque già, tu sei eccellente. Una telefonata, cioè hai fatto presenza, che te devo dire? No, adesso stai uscendo. Adesso stai uscendo, ma prima non. Vedevo il segnale pure, Natalia. Veramente esagerata. Troppo, questa non è FM. Meglio, dai. Comunque Gianni è perfetto, Gianni è proprio chiaro. Però io non mi ero accorto che qua c'è il Busellus. Cacchio, e si stava anche scaldando un bel. Ecco, così sono nude tutto. Va bene, saluto Natalino e Gianni, dai, mi metto il fornelli che già la prima devo iniziare e così già non siete soli. Ok, ripassate la M, ricordate, vabbè. Ciao a tutti, ciao. Riprendi Natalino. Ora troppo bassa, perché l'avevo migliorata un po', l'avevo migliorata molto rispetto a prima. Cazzo, adesso sto parlando di filo ormai. La tua deborda e la tua è comunque ai limiti per l'FM come deviazione. Gianni è perfetto. Ok, dai che stacco. Riprendi Gianni, ricordatevi che siete nel pezzo. Ciao. Andavo. Ciao Marco, ci sentiamo. Ma stai qua già dici normale. K, sono qua. Ehi, hai vedere. Ah, sei una M. Io sono una M. Sì, ma so anche tu. Come sono basso? E forse avevo il volume troppo basso, da. Io. E perché a Marco lo sentivo bene? Aspetta, mi sembra strano che lo sembra basso, lo sentivo benissimo. Sembrava con 3009. E K. Io lo sentivo basso col volume normale. La mia perché come stava andando l'FM? La mia è, dovrebbe essere giusta. Ah, già va bene. Bene, via. Capagare. Magari voleva appena più bassa, troppo alta. È troppo alta. Il macchinino bisogna regolare. E boh. Qua non posso toccare nulla. Ma tu gli hai fatto le leggi? No, non gli ho fatto nulla. Cava. E vabbè, comunque già era accettabile. Noi siamo troppo vicini, è quello il discorso. Ah, ti sento bene, qua ti sento bene. Ah, non c'entra nulla da lì. Io a Franco per dire, con un apparecchio lo sento male, con gli altri mi sento bene. Se usa gli altri baracchini, se usa il Kenwood no, devo mettere il filtro. Lo so, siete a un tiro di schioppo. Il Kenwood mi dà un po' di fastidio. Si sente graffiante. Anche a me sente così. Ciao Gianni, ciao Natalino. Bobo, andiamo. Ciao Otto, già ti sento bene. Vedi, non sono tutti precisi. E pure un altro minuto si vede. Questa è bella. Questa me la bevo. Ciao Re. Ehi Natalino, dimmi. Cos'è il 14 o il 44 quello? Che succede? Il 14 S. È K. Voglio fare una prova in FM a vedere come mi ascolti. Poco fa sentivo la freccia che andava, però non intendeva nessuno. Non sentivi nessuno? Sì, prova a vedere. E passa in FM. Apparecchi sei? Buongiorno a tutti. Sì, che si sente? Possibile. Io come sentinella mi sento in FM. No, ma sono particolari sono, secondo che apparecchio è li sento bassi in FM, secondo che apparecchio è li sento normali. E infatti, provate con i filtri, ho già provato, l'ho già messo, è la stessa cosa. Anzi, l'ho dovuto togliere. Ti servono filtri, Gianni, ce li ho, i filtri ce li ho, ne ho presi stamattina per fare sigarette. No, mi servono i filtri per farmi il cannone, se c'è il cartoncino. C'ho tutto, i filtrini, le cartine, c'ho anche l'erba, l'ho proprio tagliata stamattina, se ti serve fresca fresca, buonasera a tutti. Erba di casa mia. Allora, erba di casa degli altri, sempre di casa tua deve essere, se no ti diventi cuocomane come un attadino. Cazzo che storia, ce la fumiamo tutta là, questa erba che hai fatto. Molti sacchi ne hai. Due sacchi di avanzare, due sacchi. Però poi se ce la fumiamo diventiamo cuocomani. Ma non penso che chi sei, Basibia, Rubia con chi fasi. Cattano, diglielo qua quanto è buona l'erba. E anche la tua giornata ce l'annunciamo. Se l'altro giorno ero col cane, ragazzi, c'erano dei ragazzi comandosi lo spinello, si sentiva da 10 metri di distanza. L'odore. E cosa non si intende? Lo sai che cosa fa lo stesso odore? Se bruci l'alloro, l'alloro fa lo stesso odore dello spinello. Sì, hai ragione, infatti, vado un fermo bottino sull'alloro. Vabbè, fa squalo. Ciao Giulio. Cosa vuoi fare? No, che buro? Ti la rugane mio, e poco ne intendi. Ti bisciti. Vabbè. Invece che era da piccolino sentiva quando fumavano dentro nel coso, la sentiva. Infatti la cadino che sotto a me. Quindi era un paggio che erano i fumenti cose a pisciti. Maramente. C'era un cane antidroga, c'era destato per l'antidroga. Sicuramente sì. Vabbè, così è. Per quello non vuole affumare erba il cane mio, che mi abbaia sempre quando fumo. Ma tu sei con cuore. Perché ne fumi troppa. Ehi, la sta bene. Povero culo. Quello è un cane cuocomane mio. Così è. È diventato come il padrone. Allora. Cazzo. Andiamo bene, andiamo dopo. Se ne c'è poco alcuni no di sotto che fumelli, i mollurugani, a bene ci sa via. Scettiamo dopo, raga, devo fare una chiamata da un'altra parte. Scettiamo dopo. Adesso è moda, poi adesso hanno dato anche il permesso di tenere, mi pare, 7 piantine puoi tenere, per uso personale. Quindi si stanno degugliendo tutti. Cazzo che studi, allora ce ne fumiamo un bel di questa roba. Allora aiuto, comincia a rullare. Il motore posso girà. Metto l'aeroplano in circolo. Aio, allora ne hai ristra, di quelle carte di ristra ne hai. Chi non sa quante ne hanno. Basta, una e due. E si fa il cannone. No, ci sono anche quelle grandi. No, ma il cannone si fa con due, si uniscono, così ho visto sempre fare. No, ma adesso ci sono quelle grandi per i fumatori accaniti. Per farti il giugno. Allora. Tutte le inviti, E io c'avevo quell'amico mio che era cuocomane. Cappagaga. E vabbè, poi dicono che non fa niente, invece ho letto su un giornale che anche le droghe leggere fanno male, ti fanno venire voglia di non fare nulla, apatia, tutte queste cose, ti pigliano la ruga. Beh, fanno cosa sì. Sì, ma si diceva, quando ero un ragazzo io, tutti dicevano, è meglio uno spinello che un'imbriaghina, ti fa meno male di un'imbriaghina. No, che ti pizzichi già le cellule del cervello, altro che non ti fa nulla, Va, si rifumiano, infatti, però non è vero che non fanno nulla. Tu cosa ne pensi che ne hai fumato tanto? Questa ragazza fuma in scena, pensa un po'. Oh, fate venire il dolore del gambo, mi fate venire. Se c'è ancora un fumo dalla legge. Aspetta che andiamo, vabbè, c'è una baraglicemia che mi sassa ogni tanto. Sì, no, a me stanno usando la barriera, anche a Gianni gli sa la glicemia per quello che fuma, invece che fa bene a molte cose. Ah, guarda, questo il medico me l'aveva detto, se vuole gliela ordino, No, no, guardi, non la giudici ad abbo idrogato, no, lasci perdere, la cura mia è il mio pensiero, sparisce tutto. Per i dolori? No, per la glicemia, tu lo sai che quella roba lì la abbassa un po', non molto, ma già la abbassa. Ha detto, no, non ha bisogno, mi pongo una ratta in più e vedo come ti si abbassa. Allora ogni tanto ne togli un po' e te la fumi. Stasera a parte di scherzi, stasera ce l'avevo alta, ho mangiato, io non mangio mai il primo, no? Oggi ho mangiato poco di riso alla pescatura con i frutti di mare. Beh, non sai che mi è salita a 205. Non è il riso, ma pensi erano i gamberetti. I gamberetti ci avvivi? Sì, i gamberetti. Sono i gamberetti che ti hanno fatto salire, perché il riso non è pasta, ne se ne è mangiato appena appena, sono i gamberetti, sono. C'erano gamberetti cotte e a sete. Ah, i gamberi la fanno salire. Otto. Cattano. Facevano come te i geli, li fate venire pure le brugole. Non ne mangio più. Ma io ti dico la verità, ho mangiato proprio appena due cucchiai, contata. E non cucchiai grandi, cucchiai normali. Ho mangiato due cucchiai e mi è salita la glicemia. E poi che cosa ho mangiato? Ho mangiato un po' di insalata e una coscia di pollo, non coscia col petto attaccato, però solo la coscetta e basta. Guarda, io una volta, quando l'altra volta io ho mangiato due gamberi e mi si è alzato a risfermi. Ha detto, boh, basta, ho finito pure i gamberi. E non le sto toccando più. E io lo mangio il riso, non molto, ma lo mangio. E mi rimane normale a me la glicemia. Dipende anche dal condimento che ci metti, magari. Vabbè. Comunque io questi giorni ce l'ho sempre bassa, normale, massimo 120, 98, era bella regolare. Come ho toccato il primo, torna a casa. E siccome domani devo sicuramente cominciare la raccolta degli urine, perché poi dopo domani devo andare a fare le analisi. Non vorrei che questo sbarco di cosa mi abbia rovinato tutti i valori. Glielo dici che hai mangiato i gamberi, il catta, fa una volta, non te li rovinano. Se te l'ha fatta salire per una volta solo è perché per i gamberi. Io sto facendo la cartella, la talici, sono tutte scritte di glicemia. Solo che mi saranno fastidio bucarmi troppe volte per prendere il sangue, perché adesso c'è quella macchinetta che si applica, ma non me l'ha detto, se la vuole ho detto di no, perché mi dà fastidio, non voglio nulla di attaccato, se devo fare qualche sforzo, qualche cosa, devi fare la doccia, tutte queste cose qua, poi devi stare sempre andando a prendere il caricatore, il tubante, è un casino. Già, un po' di cose prenditi, di Antunna, te lo soffriggi un po' con l'olio e vedo che ti si abbassa, ti si abbassa subito. Lo faccio io quando vado a passare a fare gli analisi. E se lo metti anche la prezzemolo e peperoncino, li facciano così. No, senza mettere prezzemolo sì, ma peperoncino no. E se no ti vado a brincare. A me mi passa a sentire di soffro il peperoncino, ma che sono ne bongo. Ma sapone, aglio, preduzimo, rosolo e basta. Vero è to. E allora, no, io potete dire che da mani a me fate drudia. È un bel puro. Ma che trudio, a futidimi. Sore. Ma, sai che ti trovi? Ma come zino per lasciarla? Mamma mia. Interessante che cado di cocchi. Non li faccio, no, ui, è proprio da bugliti. E la base bionda. Aspetta, la sua di... ero con degli amici mi ci sono fuggiato da fianco, ha detto oh, allaghetevi, ma cosa? Ha che mi allago io buro, sono fuggiti, ero greno. Ma io avevo un amico che lavorava in Arabia, no? È stato un mesetto così e praticamente erano su questa piattaforma che lavorava e lui lo faceva apposta, beveva il latte e poi faceva gli scorreggi e loro siccome dicono che quando fa lo scorreggio è l'anima tua che esce e che si possessa di loro, capito? Quindi se ne scappavano tutti e si buttigava dalle risate. A chi lo sapeva lo faceva apposta, gli arabi credono quello. Ehi, se ne bugia, a chi dice che l'anima tua si possessava di loro. E se ne risate mi fa zio. Oh, yeah. Ah, se chi era? Vincenzo, capito? Vincenzo, non ce l'ho presente adesso già. Quello del Ciso, quello che è morto a poco, pari di buco. Ah, ho capito. E quello glielo faceva la moto. E poi per portarsi di cuore, siccome li controllavano, si prendeva la bottiglietta dello sciampo, si volevano ricordare la bottiglietta dello sciampo. Perché loro non possono bere, che sono musulmani. Capito. Ma lui ha detto che aveva contagiato un arabo che lavorava con lui, lo faceva bene, aveva fatto pure imbriagare. Ha detto, mi non dire niente che ho bevuto, no, no, non ti preoccupare, sono scontrato con tutti, se vostro amico l'ha bevuto whisky. Così è. E la religione glielo impedisce, dice che non possono bere loro. Sì, siccome non mangiano maiale, tutte queste cose qua. E hanno tipo una religione particolare. E vabbè. Ognuno la giuia, se già vuoi fare. E di cuore, comunque è meglio non berlo, quindi non è che sia sbagliata. Perché il maiale è un animale impuro, gli si sa mangiare da Maometto, e fa chissà che non li buone mangiare. Ma mangiano gli agnini che si mangiano in tutto da terra come ti ribuchi. Vabbè, l'agnello mangiano, però il maiale no, perché è un animale impuro per la religione di loro, mi capito? Non ne mangiano i baghissu. Infatti, uno si è fatto vedere, uno di quegli ucraini si è fatto vedere, no, bagnando i proiettili del mitra nella carne del maiale, perché i ceceni sono musulmani. Oh, yeah. E vabbè, poi magari se la fai mangiare non si ne abbizza né mamma. E vabbè, allora la loro religione, io gliel'ho detto, c'era un negretto che vendeva fuori del negozio, lavoravo io, e glielo ho detto, tu non la mangi la carne maiale, non sai cosa ti perdi, ma il porcetto sai quanto è buono. No, maiale, io gli facevo. No, maiale no, si mette a far ridere. Temono perché se uno viene ammazzato col coso del maiale, dice che non va in cielo, va all'inferno, va a pizza, paghi su chi duira, ma falli di me. Si è fatto vedere infondendo i proiettili nei rugoso, nei ragazzi di rubocco. Ma dimmi tu, credenze tutto allucinante. E infatti, e loro però credono quello, che se toccano carne di maiale vanno all'inferno, capito? E ho buro, anche io vado all'inferno che non mangio un fermo dubbio. Basta di separare. No, ho detto che anche io lo mangio il maiale e vado all'inferno, secondo Eddie. E tu vai all'inferno e tu 10 buro se mangi il coso, il maiale. Però la figlia non mangia né coniglio né cavallo. A me la carne di cavallo mi piace bene, macerata, la faccio macerare, le ho prese con le peperoncine e poi fatta rossa, sai che è buono. E ero grido, quindi da così. Così è troppo dolce, senza mettere peperoncine è troppo dolce, invece con peperoncino ci sta. Però io ho quel difetto già, cazzo, mi fa uscire subito le emorroidi. Cazzo, una volta ero con Franco, avevamo fatto il sabato asciutta e le cida la mano di Rube Valone, beh, 2 settimane con le cose sono stato, con le emorroidi. Ma stavia due emorroidi marazzuti, non ne mangio per quello, col peperone. Già me lo ricordo, abbiamo prestato la crema anch'io che ce l'avevo a casa. Ma a me me l'ha fatto una volta solo, ma non è che ti venga sempre, me l'ha fatto una volta, ma tanti anni fa. E avevo mangiato troppo piccante, deve essere, ma non me l'ha più fatto. Eppure io ce lo metto nel sugo, il peperoncino, ma sempre graduatamente. Se lo metti graduatamente non ti fa nulla. Eppure a me, gatta, come sta poi, ci come Maroni, mi ha basta asciutta, me l'ha fatto. E allora dalla buccia al cazzo no, non è buon come Maroni, no. Lo sai che mi attendi ad ora rizzoppo. Io l'altro giorno sono andato a fare la spesa, ho visto questa salsiccia bella rossa, ah che bella, per toccarla questa salsiccia bella veramente. Arriva a casa, devo solo affetto per vedere se è buono. Oh, fa poco non credo, è la salsiccia peperoncino. Ah, sembrava che avessi masticato un peperoncino, quella è esagerata, io così è proprio rovinata la roba. Infatti. E per gente, per esempio, il peperoncino si rimagna con Rubani, dimmi tu, e non ripassi nuda. Però a me, gatta, come tocco peperone, gatto, mi pare che sia più difetto. E allora preferisco evitare. Il cugino di Liliana, che è peperoni calabrisi, che è peperoncini calabrisi, si rimastica, se li mangia così, non li fanno niente, non sente il piccata. Allora vedi, è perché io lo so che c'è tanta gente di Romagna, invece io no, se era appena piccante in quella pasta asciutta aveva fatto Franca, che le ci dà la mano, bru, più mi. Ma poi appena in più, cazzo si mi ha fatto male. Lo so. Il troppo storpiato per le parti, ma gradatamente, che si sente appena va bene. Non deve essere una cosa eccessiva, perché quando poi è eccessivo fa male. Magari non mi fa niente, se lo mangio magari non mi fa niente con appena di peperoncino. Però cazzo dimmi, a che ogni volta che lo mangio mi fa rifatta a puglia. Ah, l'altra lì io prendo quello in polvere e mi regolo, capito? Se gli do una spazzata solo, si sente appena e non ti pizzica. Se gliene dai due diventa già piccante, quello piccante. Poi se ne dai tre non si può bagnare, quindi ne metto una solo, di modo che si sente appena mi dà sapore, ma non è stravagante come che è sapore. Se io prima lo mangiavo, io mi ricordo prima lo mangiavo quel peperone, non mi faceva nulla, ma la voce gatta da quando ho cominciato a soffrire di emorroidi, non ho più mangiato peperone. Me l'ha fatto una volta quando facevo lo corriere, che a tempio giocarmi da un ganso, non ne potevo più. Avanti tu, stai buoni per parlare. No, io no, qualche volta me lo metto nelle, però no, non ci vado matto. Poi quando drudieggi non vi puoi stare vicino. Pensi che te ci l'abbiamo, così. Si può dire, e che ti mi brucio le mondane, le pantaloni. Vabbè. No, ma se le metti appena non fanno, lei lo mette anche nessuno, figura. Lo mette anche nessuno e gli dà questo gusto buono, ma non è. Non è eccessivo, dai. Ma chissà, chi non fa certa cosa. Anzi, è vaso dilatatore, ti dilata le arterie, ti fa scorrere meglio il sangue. Avanti. Buonasera. Buonasera. Che produce la scelta dove è? Perché sei tutto cupo? Cupo? Dove è cupo? Boh, io lo sento cupo, tu una carica. Cosa già che stavo parlando con la 50? Che a Cristian lo sento cupo, tu come lo senti? Come sentite, cupo? Come al solito lo sento già io. Io sono me, sa dietro io. Ah, c'è qualcosa attaccato, aiuto. Sì, attaccato solo sedile, attaccato solo. Vabbè, sarà al mio apparecchio. Grazie, sento chiari. Avanti, Tore. Eia, no, io già lo sento bene. Lo sento benissimo, lo sento. Buonasera, Cristian. Ciao, buonasera, ciao Mattarino. Guarda, io ci vedo attaccato, magari poi sono 747, poi domani mattina, magari. Ehi, ciao Cristian, aspetta che c'è uno che vuole entrare, va. Ciao Turi, capra, una bella voce, adesso la radio più forte. Con che microfono stai andando? Ma cosa, un'altra? Ah, ho capito quale. Ce l'aveva anche, mi pare coso, come si chiama, Riccardino, Cavagava. Vabbè, comunque lo sai che Romeo è tornato a casa, Romeo è tornato a casa. No, non ho messo la gabbia fuori, l'ha trovato una signora, mi ha telefonato perché ho messo il numero su Facebook e sono andato a prendere, era via Nubio, due passi da casa. E lo sai cos'è? Il problema è che ne ho ordinato un altro adesso e quindi l'ho già pagato il tutto. E adesso poi trovo tre. No, quello non è un problema, non si è affatto. Ma. Il problema è che ho speso 300 euro in più. Vabbè. Sono contento per Romeo perché mi doleva il cuore averlo perso. E adesso vedo, se riesco a vendere, lo vendo là. Che pagato. Avanti, c'è Natalino, Cristian e via dicendo. Va per chi vuoi. Salutamelo, ce lo sento io. L'ascoltate a Torino? Io no, nulla, zero che zero. Oh, io ascolto abbastanza bene. Tu prova a venire avanti. Cosa? Sì, già me lo ricordo, Torino. Già ci sentiamo in settimana. Io alternata ciò. No, non è tu alternata, sei perfetto. No, ce l'hai tu forse, Torino. Io se parte con l'alternata. Io ce l'ho l'alternata ciò. No, io la sento quando parla lui, non lo so. Guarda a vedere, io ho alternata ciò, guardate, controllate a vedere. Non è già. Io faccio in QRT che sto mangiando. E va bene, di buona carica. No, dicono qua che non ne ho io, abbiamo sentito gli altri dice che non ne ho tu. Ma essere portati che è da parte sua? Mette la non portante magari quando parla. Sono Natalino, buon carica batteria. Cosa? A Natalino, buon carica batteria. Grazie. Riprendi Arturino. Ma tu un regalo a tua figlia non glielo fa. Cosa? Perché il tuo compleanno era. Ho detto un regalo non glielo fa a tua figlia. Il regalo fa pagarlo mio. Vabbè, non c'è problema. Tanto mi arriva la pinta. Cosa? Ma l'altro glielo ordiniamo. Pinuccio. Ma già lo sai che sono casinisti quelli miei. Avanti, Cristian. Papagallo è tornato, il Romeo. aspetta un attimino, chissà, quando parli ti metto il filtro, vediamo un po', prova. Ho sentito ieri che Romeo è tornato. Ah, ma quelli lì al gatto se lo mangiano, quelli miei. Sono contento. Di salta non sopra la testa, di beccano gli occhi, dove fanno le cornate. Una volta uno stava buttando la mondetta e c'era col cane. Ha visto una cornacchia e gli ha detto al cane, prendilo, era un pastore tedesco, prendilo. Il cane è andato per prendere la cornacchia si è messa sopra la testa del cane e gli ha beccato il naso. Gli ha fatto il sangue. E lo fa, lo fa. E lui l'ultima bastante, no, ma si tuffano che ve ne hanno dato. Invece c'erano problemi, praticamente le cornacchie col funghetto vi ho portato a rame. Antonino, novità. Va bene, già ci sentiamo la settimana. Ma sta chiudendo? Sì, va bene, fai, tranquillo, roba buona, sei preparato. Salutiamo la parte mia. Tonino vi saluta a tutti e sta facendo quel ritiro. Ciao Tonino, ci sentiamo. Alle prossime, avanti qui. Saluto la parte mia a Tonino, che non lo sento ancora io. Devo cambiare l'antenna in macchina. Lo ascolto? Io non lo ascolto a Tonino ancora, sono cambiato l'antenna. Qua arriva Santiago 7, Tonino. Ma io sono in macchina, tu sei in alto, io sono in maramobile, a fare da niente, cosa pretende? Ma infatti non è che... vabbè, ma secondo la zona, mica io da Porto Torre parlavo con l'Alghero, il Porto Torre se è negativo mi fa l'Alghero, parlavo dalla macchina con l'Alghero. Sì, ma tu hai venuto nel 2001, io sono a lei, ma sono a metro e mezzo, un quarto d'onda. Anche quello già è vero, poi a domani mattina mi tocca pigiarmi di ghisa per andare all'aeroporto. Io ve ne sano. Cosa? Prezzato o si è al lavoro qui? Sì, bloccato. Cavolo, vai, meglio. Quindi domani devo scendere, ve ne sano a fare un video ortopedica, a vedere cosa... cosa di specifico, guarda. Non ho capito. I dolori sono brutti, io li ho avuti, non so che ne sono da che cosa, qui ce l'ho ogni giorno, da quando mi alzo sono stato dolori, non ci ho. No, proprio io non sono neanche più a camminare, che è diverso. Vabbè. Lo so, anche io non riuscivo a camminare, Cristo, me l'ho dovuto operare a me per camminare, se no non mi muovo più. No, io, io ho il disco, però non so le erni che hanno fastidio. È proprio il muscolo sciatico che si è infiammato a me. Ho capito. Per me invece era diverso, c'era il femore consumato. Mi hanno dovuto mettere la protesi, che è un'operazione che dura un bel po'. E dalle 8 di mattina mi hanno alzato, penso che fosse l'una e mezza alle due. Non è che mi sono reso conto molto perché ero sotto metadone, quindi non capivo lui. Ma guarda, io mi ero subito già quattro operazioni al ginocchio. Mi basta avanti, adesso lo devo subire e poi me la protesi purtroppo, tra un po'. Cappa, dai. E vabbè, già passano, i dolori già passano, sono fastidiosi perché durano un bel po'. Prima mi veniva un inverno, la sciatica, la lombosciatalgia mi veniva sempre. No, io sono, a me fa male, dalla caviglia alla bocca, mi fa male tutto, tutta gamba completa mi fa male. Non so il motivo neanche. Poi si sente un rumore sottofondo quando parli di coppia. Roba di propagazione, senti un... E vabbè, se su 5 siamo pagati a 1000 stasera, su 5, era pieno. Si sta quasi coprendo la modulazione, si sente poco proprio. Su 45 era pieno di modulatori oggi. Gianni, ma si sente il mio disco volante. Qui ce l'ha l'FM. Attenzione. Non so se fa il mio apparato in FM. Non è più il radio. Non sta facendo più il radio, Cristian. Nada. Questo apparato non fa in FM, va regolato il coso di FM anche. No, non funziona, non si sente la radio, l'importante si vede ma non c'è radio. Allora bisogna aprirlo e giocare col trim. Fatelo vedere tuo fratello, te lo guarda. Cosa fratello? C'è un problema tecnico. Adesso dove sei qui? Ex città mercato parcheggiato. Se parlare c'è la città mercato non si compra di qualsiasi, c'è molto problema di propagazione. Ma c'è una parete qua c'è strutto alta. Da 4-5 metri però a fianco a me. Ma buonati, saluto che non riesco a capire cosa dici. Dai, ci sentiamo dopo, dai, a più tardi. Ciao, Cristi. Tommy! Oi. Serata 6:30, 7 anche. Io tanto stavo cucinando e non potevo rimanere. Poi hanno chiuso tutti. No, io stavo facendo karaoke a casa. Stavo esercitandomi un po'. E Luca sta più entrando? Non lo so, dentro la sera Luca di solito. Ah, c'è ragione, hai ragione, perché dalla ragazza va tolto tutto, modula solo da casa, e vabbè dai, e tu adesso pigli il caffè, dai, buona serata, qualcuno entrerà. La cosa è che si affonda una scala qua. Ma tu come seconda antenna intendi la bazooka? La sorma, cioè, mi arrivi a fondo scala. Come mai? Ah, mi ero dimenticato un tastino premuto. È un bel forte, c'è. Come ti arrivo io? Vabbè, qua è a LED, non fa. Fondo scala, a LED, cioè a LCD. No. Cioè, questo c'ha il 3, il 5, il 9 e il più 30. Aspetta, quella è la differenza. 1, 2, 3. Faccio la magia. Ecco, la magia non c'è più. Me l'ho dimenticato, perché qua sotto è nascosto, non lo vedo, non vedo il LED, capito? Della strumenta. Vabbè, dai, lo stesso, funziona bene, funziona. Cappa. Comunque già si può usare a. Stazionaria è zero, non ce n'è. Non ci sono stazionarie. Dai coglioni, meglio così. Sì, quella è fatta apposta, però ricordati Anto che stazionarie, cioè l'assenza di stazionarie non vuol dire che l'antenna sia efficiente. Come vedi quella è un'antenna che rende pochissimo, non ha stazionarie però rende poco e anche corta. Bene, Io ho lasciato tutto acceso, però passo in Core X. Ti saluto tanto, buona serata, buon tutto. E vai, vai. E sul tetto ce l'ho, quindi già andato. Mi lomi sempre in agguato, e mi. La Formula 1, comunque la Ferrari prima e seconda, Almeno quello, Natalino era me. Era ora che la Ferrari facesse qualcosa. Se il mondo avesse risposto in modo adeguato alla missione della Terra, allora non saremmo in questa situazione. E questo è sempre stato il punto di Erz. La Red Bull ha pigliato un colpi, Poi l'ultimo c'è pure un gremata, c'è. E andava così. Ma stavo lavorando su un brano, stavo lavorando. Libia Cantonacci, capito? Molto bella, La conoscete? Se io, se lei. Yes, mi chiedo, lì certo. Avvertito come adesso vado e mi faccio il caffè, alla faccia di chi non vuole. Ehi, guarda, se sente il medico mi ha vietato tutto, cioè dovrei campare di acqua e riso. Caffa, la conosci questa canzone qua o una pubblicità? Troppo soft per me, io sono roba più, ok. No, vi devo lasciare, ciao Natalino, ciao Antonio, ciao. Vedete, è bella la canzone, già. Può saperla cantarmi. È molto bella, Sì. Ho stato un povero distante, un po' meno orgoglioso. È rocchettaro, è metallaro quel Marco Condo. Qualsiasi rapporto pregresso. A loro le piacciono le TV. Sì, è troppo mielosa, Anto. Per le ragazze sono più adatte, per catturare, però per il resto non le ascolto. Io sì, ero a CDC, i Kiss della vecchia maniera, gli Iron Maiden e poi tutto il resto che è venuto dopo. Ma anche roba americana, Bruce Springsteen, tutta quella roba lì. Mi piaceva anche Michael Jackson, mi piacevano, come si chiama, Sting, poi quell'altro, ma non mi viene il nome. Vabbè, un po' di tutto, mi sono allargato come musica classica, anche tutto. A te ti piace questo? FIBA e non da mai detto, quello è già più cazzuto. Quella la canto io, la canto. Ah, anche quella canti. E quella è una canzone particolare. Quando ero giovane è bellissimo. E infatti stavo facendo le prove su quella canzone, se io, se lei. Però bisogna saperli cantare, non è così, no. No, non è così, bisogna saperle cantare quelle canzoni, cazzo. Oh, yeah. Bella cazzo, mi piace questa storia, che non siamo stazionaria. Ah, io già sono assonato, io non ci provo nemmeno a fare karaoke. Stacco, dai, chiudo, ciao. Ciao, dai, ciao. Oh, quando è che vieni a vedermi, Natalino? Natalino! Fatto cate fughe, Natalino, è un coccomane. Stavo dicendo, quando è che venite a vedermi? Che faccio il karaoke. Vabbè, sai cos'è, non amo il karaoke io, Antonio, gli avevo già detto anche a Gianni, a lui piacciono queste cose, musica dal vivo, karaoke, a me non karaoke proprio, non lo posso dire. Chi non vedevo a cantare? No, ma neanche da ascoltare, perché molti non sono buoni, sai, quando nei locali fanno il karaoke c'è gente che va a ragliare, quello non è cantare. Lo fanno tanto per scionfra, non lo so, a me non piace. Se uno osa cantare bene, allora il karaoke lo fa bello, ma se no, per carità. Vabbè, tu c'è un cucaretto troppo gorgio. Cioè, uno deve andare anche per il piacere di, cioè, di sentire anche per farsi anche una risata, se no che karaoke è. Cioè, sono tutti bravi gay e uno va nei gruppi e ci ascolta un gruppo musicale. Cioè, anche quella è la storia. A me l'unglutato è rimasto. Antonio, non potevo rispondere, mi stavo facendo il caffè. Cosa volevi? Ho detto, qualche sera tu e Concetta venite a vedermi. Magari qualche sera già veniamo, perché anche io mi sono stufato di stare in casa, è che non mi sento bene in questo periodo, ma neanche Concetta deve ci ha preso questo cazzo di influenza, pure se abbiamo fatto il vaccino. Oh, amarata, tutta influenzata, e anche io non è che mi senta tanto bene, no? Va bene, io vi lascio. Bella cazzo, devo stazionare. Sono contento, allora posso usare anche questa antenna. Io vi lascio, sto iniziando la Formula 1 in differita. Voglio godermi lo spettacolo. Ciao, ciao a tutti. Ciao Antu, buon proseguo. Marco, ancora ci sei? Sì, ciao Antu, e a Concisemo. Ieri avevo il mal di reni al rene sinistro per via di calcoli. Oggi c'avevo mal di schiena che si irradiava tutta la gamba destra. Ogni arrivo ne è una. Sì, ha delle ragioni della mia. Infatti. Forse abbiamo fatto troppo poco. Infatti, io non è che mi senta bene. Se no già sarei uscito. Oh, ma nemmeno io, infatti. Poi col tempo non ne voglio uscire. In più ti senti poco bene. Purtroppo è così, che te devo fare? Che te devo dire? Ogni arrivo ne è una, va bene, prendiamola con filosofia. Soffia sto microfono, prendiamolo, ho detto, con filosofia. E cosa vuoi fare? Più per quello non puoi fare. Cosa che dicevano quei pirla all'inizio pandemia, eccetera, andrà tutto bene, sì, siamo le solite di una guerra mondiale pure, per carità, manco a guardare la TV. Sì, andrà tutto bene, sono vivo per miracolo io. Ah, io non so se vedrò il 2023, quindi non dico nulla io. Qua, quello che ho passato io, manco al peggior nemico si augura, qua. Due operazioni ho subito. Non mi si può pensare anche lì. Vabbè, dai che chiudiamo, che tanto adesso mi accendo la TV, mi metto qualche manata e fate la serata. Ciao Natali, buonanotte, saluta in casa. E altrettanto, ciao Marco, ciao, grazie per le quattro chiacchiere, anch'io QRT, dai, salutando eventuali orecchie di porco. Ma le vedi le orecchie di porco? Sono sempre io, sono me. Credevo fosse Luca che era rientrato a casa. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao Marco lì. Ciao, ciao Marco, ciao a te Natalie. Ciao, ciao, anch'io mi accendo la televisione adesso, anzi è già accesa. Capa, va vai su TV8 la replica, che mi godo la gara, dai. Ci sono stati sorpassi allucinanti. Ciao a tu, ciao, salutami in casa, alle prossime. Ciao, ciao.